Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi parla francese perché ci spostiamo oltre le Alpi nel mondo transalpino. Lo facciamo con protagonista la nostra nuova collaboratrice Patrizia D'Antonio, che prima, interpellata da Morena, ci parlerà del Grand Chat, questo fumetto famosissimo da quelle parti, che è anche protagonista di questa mostra a cielo aperto nel Belgio. Poi rimaniamo in terra di Francia, ma spostandoci nel paesino di Angoulême, che è un po' la patria del fumetto. Ce ne parlerà una giovane artista italiana che ho usufruito di essere artista residence in questo luogo magico. Quindi ancora Patrizia D'Antonio ci inaugurerà questa nuova rubrica, Le donne del fumetto, che periodicamente andrà ad arricchire la nostra trasmissione. Comunque, dopo lo stacchetto musicale, Morena Moretti intervista proprio lei, Patrizia D'Antonio. D'Antonio, sei stata da poco a Bruxelles. A Bruxelles sei entrata in un parco che ho capito meraviglioso. Il Parc Royal, del centro. Non un parco a caso, cuore. Ma oggi in sì. Questo parco ci sono delle sculture fantastiche, diciamo che sono sì. Sculture che rappresentano lo scià. Il famoso scià, che è questo gattone enorme inventato, enorme nella forma delle statue, poi ha preso invece forma su tanti libri e più di una ventina di album di fumetti, quindi il simpaticissimo Philippe Geluck, che è l'autore, che ha ormai 69 anni credo, e ha inventato veramente questo scià. Beh, tutti conoscono un po' la storia, no? Probabilmente. Però possiamo anche un po' ridirla. Sì, lui praticamente è giovanissimo, insomma, aveva acquistato questa casa in prestito, avevano pochi soldi e quindi aveva in campagna, in Francia, scusate, in Belgio, e aveva immaginato di chiedere come regali, insomma, del riscaldamento, e quindi per ringraziare aveva preparato dei cartoncini ai familiari e agli amici, in cui ha disegnato questo primo gatto, parliamo del 1980, quindi questo gattone ancora non era vestito all'epoca, anzi una gatta, e aprendo il foglio c'era un gatto che copulava come questo, quindi era una coppia, diciamo, e visto che si parlava di matrimonio. Dopodiché nell'83 sul giornale Le Soir gli è stato proposto di inventare un personaggio, e questo gatto riprende e le sue caratteristiche, cioè intanto si veste, diventa un gatto un po' irriverente, un po' anche simpatico, in cui ci si va, si spazia da giochi di parole, moltissimi giochi di parole, poi è la famosa comicità humour belga, ha anche insomma dei tratti piuttosto, diciamo, impegnati, no? Io penso, blog, questo posso dirlo, dove ho riportato l'articolo Donne con lo zaino, questo articolo che ho fatto dopo la visita al Parc Royal, di queste più di 20 statue enormi di bronzo che raffigurano le varie forme delle scià, sono statue enormi che pesano 2,5 tonnellate ciascuna, quindi immaginatevi in questa allée, in questo viale del parco, che impressione. Ciascuna appunto ha un gioco di parole, ha una posizione, ha un oggetto, e in una invece in forma di vignette c'è il famoso gatto così alla Belle Étoile, cioè disteso, che guarda il cielo e si chiede nel fumetto, insomma c'è scritto, gli hotel dei ricchi hanno massimo 5 stelle, quello dei poveri ne hanno infinitamente di più. perché insomma rappresenta un povero che evidentemente dorme alla Belle Étoile, quindi fuori. C'è la difficoltà di tradurlo? Sì. Tu hai tradotto questa, ma questa era, diciamo, semplice, però in generale è molto difficile, perché sono battute che giocano molto, appunto, come si dice, col linguaggio, e sono le carambure, e questa è la cosa. Il parco però è un parco visitabile da, ovviamente, adulti, bambini, eccetera, e che cosa rimanda? Cioè, è anche divertente, è anche adatto per un pubblico assolutamente che vuole scoprire. Allora, Bruxelles è una città internazionale, ma questa cosiddetta mostra, diciamo, che si chiama, in generale ha un titolo, è Le Chat Déambulant, che vuol dire questo gatto che si muove sostanzialmente, è stata installata nel 2021 sugli Champs-Élysées a Parigi, è stata a Cannes, a Ginevra, a Monaco, quindi è qualche anno che questo progetto va avanti. Non mi chiedere come fanno a spostare 20 statue da 2,5 tonnellate, però sicuramente è molto impressionante. E in qualsiasi di queste città sia stata. Ora è ritornata a Bruxelles da diversi mesi e in realtà in attesa, bisogna dire, in attesa di realizzare quel progetto di Philippe Geluck e della città di Bruxelles, che insomma sta mettendo dei finanziamenti per creare proprio un museo che si chiama il Musée du Chat e del dessin humoristique. Quindi sapete che a Bruxelles c'è già un museo della bande dessinée, dei fumetti, ovviamente, perché insomma è il paese dei fumetti. Quindi, peraltro, Le Chat insieme a Tintin, Marsio Pilami, gli Schtroumpf, cioè i puffi, no? Sono tutti belgi e lo si vedono. Chiunque faccia una passeggiata in centro dalla Grand Place, ma anche in tanti altri quartieri, vede questi affreschi di street art dove i personaggi ravvivano con i loro colori la città. E quindi sono molto, fa parte un elemento molto, molto belga, l'humor, eccetera. Quindi, oltre al museo dei fumetti, che è straordinario, davvero un luogo importantissimo, ci dovrebbe essere questo altro. Quindi quando sarà installato in un vecchio cantiere vicino al centro, vicino al Musée des Arts Modernes, dovrebbero prendere posto stabilmente dopo aver fatto questa passeggiata nelle varie città. Tu dicevi poi dell'humor, della lingua, e questo è molto importante. Adesso poi di esempi se ne potrebbero fare, però è vero che a goderne sarebbero più francofoni, mentre le statue che hanno appunto tutte, che so, per citarne una, no? C'è il Le Parleur, cioè il cosiddetto parlatore, che fa riferimento alla statua, ironicamente ovviamente, alla statua di Rodin, il pensatore, no? Che c'è quell'uomo con quell'attitudine, anche diciamo, dissacrante, perché invece lui fa questo gattone in cui scrive Le Parleur, quindi il parlatore, non il pensatore, e dietro due grandi ali in uno scrive: mentre Rodin ha scelto la facilità col suo pensatore, Geluck mette il limite un po' più in alto con il suo parlare, quindi è autoironico, che è proprio l'humor belga. E l'ultima che riporto, perché veramente con un video, perché veramente a mio avviso insomma fa capire anche questo humor belga, è Singing in the Rain. Quindi c'è questo gattone con un ombrello tutto di bronzo, perché lui si è fatto aiutare ovviamente da due maestri per fondere il materiale, e c'è questa installazione per cui l'acqua cade sull'ombrello e quindi uno assiste al Singing in the Rain, e ovviamente come non pensare alla quantità di pioggia che cade in questa plapei, che quindi consigliatissima questa visita in Belgio per tante ragioni. E ricordiamo allora però meglio dove possiamo anche trovare l'articolo che tu hai scritto e dove ti si può seguire nelle tue peripezie. Noi facciamo parte di donnecollozaino.org, nel blog si trovano gli articoli, tra cui Un chat à Bruxelles, che è sia in italiano che in francese, ma anche traducibile, e quindi sicuramente queste altre avventure, anche legate ai fumetti, sono raccontate. Grazie. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa, ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. E dal Belgio arriviamo in Francia, proprio da Gouléen, questo luogo che è un po' la patria del fumetto. E Luca Baldassi, giornalista esperto di fumetti, nonché un esponente importante della Coconino Press, intervista Belly, questa giovane fumettista italiana che è stata in residence per diverso tempo in questo paesino della Francia e quindi può spiegarci di come una certa concezione della cultura in Francia sia ben diversa, ahimè, da quella che è presente in Italia. Visto che hai fatto un anno di residenza ad Angoulême, che è, oltre che sede di un importante festival, forse il più importante di Europa, assieme a Luca Comics, ma molto diverso da Luca Comics, perché è comunque un festival molto di contenuti, di mostre, dove il fumetto la fa da padrone e non è affiancato da altri settori dell'entertainment. Angoulême è anche sede di una scuola, è fortemente finanziata dal governo francese e non mi ricordo se ogni due anni o ogni anno sono delle borse per fare un anno di residenza per giovani artisti. E se vuoi raccontare brevemente questa esperienza, perché è interessante, anche per capire come è considerato in Francia il fumetto anche a livello di sostegno da parte delle istituzioni. Allora, Angoulême in effetti è una città che praticamente non esisteva, poi hanno visto cosa hanno fatto a Lucca e sono detti potremmo fare questa cosa, potremmo creare un festival di fumetto, e l'hanno creato, e adesso il festival di Angoulême effettivamente è arrivato alla 50ª edizione l'altro anno ed è un riferimento internazionale per il fumetto. Cosa hanno fatto? Sono detti, non limitiamoci a fare un festival, facciamo in modo che il fumetto sia qualcosa che resta nel territorio, che sia un aspetto fondante di quella città, investendoci. E quindi hanno creato nel tempo, grazie a molti finanziamenti, grazie a molti anche all'impegno, un interesse molto forte degli attori locali e nazionali, hanno creato prima un museo, che è il Museo del Fumetto di Angoulême, che è abbastanza importante, un centro di documentazione immenso, credo sia, è sicuramente il più importante in Europa per numero, per volume e per tipo di opere conservate. Poi hanno creato varie borse, hanno creato l'ESI, che è l'Accademia di Belle Arti di Fumetto, una delle più importanti in Francia, eccetera. E da 20 anni, da 23 anni esiste una cosa che si chiama la Maison des Auteurs, la casa degli autori, che al quale hanno allestito una ventina più o meno di atelier, tu, se sei un autore, che tu sia pubblicato o no, che tu sia famoso o no, che tu sia una persona che fa underground, che fa autoproduzione, che lavora per grandi editori, non è, che tu sia francese, non ha importanza, tu ti puoi candidare 3 volte all'anno con un dossier e richiedere di essere residente per un periodo che poi viene concordato, minimo 3 mesi, massimo 12, ma rinnovabile, può essere massimo 4 anni. In un arco di tempo di 12 anni per esclusivamente per lavorare al tuo progetto, e in molti casi ti viene, quasi in quasi tutti i casi ti viene anche accordata una residenza proprio fisica, cioè tu hai poi un appartamento che non ti viene fatto pagare, paghi le spese ma sei lì ospite e tu sei lì esclusivamente per lavorare al tuo fumetto. E perché è interessante, a parte il fatto di investire così tanto, perché un investimento proprio economicamente molto molto importante, ma con un grande ritorno, perché poi ci sono un centinaio di autori di fumetti che si sono stabiliti. Angoulême, io dico sempre, come dire Belluno, cioè un posto in mezzo al niente, piccolo, non ha una grande attrattiva, se non per il fumetto. Sono tantissimi autori che sono andati a stare lì e che fanno vivere il territorio anche grazie alla loro presenza e al loro interagire con altri tipi di istituzioni, ma soprattutto per gli autori è una manna, perché tu, persona che magari non è nella disponibilità economica di svolgere un progetto personale, può vedersi accordata questa possibilità e si vede inserito in un contesto stimolantissimo, perché siamo minimo una ventina di residenti sempre, da, mi sembra abbiano calcolato, 40 diverse nazionalità nell'arco dei 23 anni, ma insomma non ci sono mai meno di 10 nazionalità contemporaneamente. Si parlano, in una giornata parli mediamente 3 lingue, perché trovi persone dappertutto con cui interfacciarti, modi di vedere il fumetto diversi, industrie diverse, approcci, stili, veramente una grande di interazione e di arricchimento personale artistico. E io ho avuto molta fortuna, ho avuto la possibilità di candidarmi e di essere accettata, e quindi di stare a Angoulême, di essere residente la prima volta per 6 mesi e la seconda volta per 1 anno, quindi comunque per un lasso di tempo abbastanza ampio. e questa è la rubrica che appunto parlerà di fumettiste donne. In questo nostro spazio Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che si arricchisce della collaborazione della Patrizia e Antonio, che periodicamente ci porterà all'attenzione di queste valenti fumettiste. Allora, cominciamo subito con Margherita Bue, scrittrice e fumettista ivoriana, conosciuta per le sue graphic novel della serie Aya, fumetti premiati anche da Goulême, il paese della Francia fattosi patria del fumetto, come già in precedenza ce ne accennava Benedì. Nul ne m'éloignera de ce merveilleux chemin. Car ceci c'est mon héritage, l'héritage que tout un chacun doit songer laisser à son enfant. L'être humain se trompe tout le temps, il croit que le meilleur héritage à laisser ce sont les biens matériels. Ed eccoci in questa rubrica di Donne e Fumetti, dove si cerca di recensire volumi laddove ci sia lo zampino di una donna, che sia nella grafica, nel disegno, nel testo o nel soggetto. Sappiamo, il fumetto è tradizionalmente un mondo riservato ad eroi e ad artisti, che siano disegnatori e autori, generalmente uomini. In Italia abbiamo avuto l'eccezione con la sorella Giussani, ma questa è un'altra storia. Oggi vi voglio parlare di una saga, si può dire effettivamente, perché sono 7 volumi, 7 tomi, di Marguerite Aboué e disegnati da Clément Oubrery. Marguerite Aboué è l'autrice, è una donna di origine ivoriana, arrivata in Francia a 12 anni, e da questo incontro poi con Clément Oubrery nasce questo personaggio femminile, questa giovane donna che si chiama Aya, e che abita nel quartiere Youpongon di Abidjan. Quindi la storia ha dei riferimenti autobiografici, ma è un mondo in cui in 7 tomi, appunto pubblicati in Francia da Gallimard, e nel 2007 è uscito il primo volume in italiano, poi nel 2009 il secondo e altri 4 per Rizzoli, Lizard, una collana Quadricromia, e c'è tutto un mondo, dicevamo, si dipanano vicende e personaggi che hanno lati oscuri o anche teneri, ci sono donne combattive, c'è il parrucchiere gay stanco di nascondersi, i mariti che vogliono prendere altre giovani mogli con matrimoni arrangiati, i ricchi padroni con le ville e i parenti poveri rimasti nella campagna, nei villaggi, poi c'è il DJ, il sarto, il capovillaggio e molti altri. Intorno ci sono appunto questi disegni pieni di colori dell'Africa e il lettore cammina per le strade, i mercati, entra nelle case dei ricchi e dei poveri con i loro decori, con i mobili pieni di dettagli, i maquis che sono queste bar, ganghette dove si ritrovano le persone, i giovani ma anche gli anziani, gli uomini, e sono proprio le immagini e la lingua che tipizza il racconto, che però per i temi somiglia a molte storie di periferie europee o di altri continenti, ed è questa la straordinarietà, poiché l'operazione che vuole fare effettivamente l'autrice è quella di ambientare il racconto, peraltro una scelta anche di ambientarlo negli anni 70 in questa periferia urbana, alle cui spalle si risentono i contrasti con chi è rimasto nei villaggi di origine e con la Francia, che è il luogo mitico, privilegiato di emigrazione, soprattutto in quell'epoca, appunto tanti anni sono passati e tante altre contraddizioni si sono cresciute, diciamo, da allora. Ma in queste diversità culturali la maestria del racconto e dei disegni fa entrare il lettore e la lettrice occidentale in questo mondo che sì, è così lontano, peraltro sia nel tempo che nello spazio, ma è ravvicinato da questi temi universali toccati, perché l'autrice mette in scena la vita quotidiana delle persone, quindi le amicizie, i litigi, le questioni familiari, l'infedeltà, i progetti di studio, le feste, i divertimenti, i segreti di famiglia, i malintesi. Quindi le avventure di Aya e della comunità che ruota intorno a lei, che siano le famiglie allargate, gli amici, le amiche, c'è questo trio di amiche molto importanti, i villaggi, le periferie, mostrano un'Africa vista dal di dentro, con le difficoltà per i giovani di costruirsi un futuro, le aspirazioni, i progetti, i destini che si incrociano, ed è un fumetto effettivamente che ha il sapore di una serie televisiva. Infatti ne è stato tratto uno splendido lungometraggio di animazione franco-ivoriano nel 2013 dal titolo Aya, la vita a Yop City, e l'autrice ha poi lavorato alla serie TV C'est la vie su TV5 Monde Afrique e A+, Ma ecco, mezzo secondo ancora per dire la trama in due parole. Aya è una ragazza che sogna di diventare medico e attraverso le sue vicende scopriamo un mondo che integra valori, costumi, mentalità tradizionali con elementi di modernità. La protagonista tenta di emanciparsi attraverso lo studio, evitando gravidanze, matrimoni, amori contrastati, mentre le sue due più chiare amiche, più conformemente all'immagine che la società si aspetta dalle giovani donne, sono alla ricerca di un marito che garantisca loro il benessere. E da questo poi si dipanano appunto tutti i vari racconti. Aggiungo solamente che la saga evidentemente ha avuto un notevole successo, soprattutto in Francia, dove il primo volume appunto di Aya è stato premiato al Festival del Fumetto di Angoulême con il Prix du Meilleur Premier Album. E l'autrice, questo è molto interessante, ha poi continuato con altri album e serie di fumetti e lavora nell'associazione da lei fondata Des Livres pour Tous, ovvero per costruire biblioteche nei vari quartieri e rendere accessibili i libri nelle città africane e lottare contro l'analfabetismo. Da allora sono state aperte 5 biblioteche dove si accolgono 6.000 bambini e anche più ad Abidjan. Come dire, quando le donne ci si mettono a raccontare le storie, si fa veramente delle cose straordinarie. Thank you.